mi metto ste cadenti in bocca per non fumare. Non ci vede che non m'accatta il lente per sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lire, spacco soldi, spacco puro ricente, spacca scarpe in un maccatto, poi te fa, fa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, com'è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai nu cappelluccio tosto, 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, ma si è fatto verde chiaro, era un abito di papà. E marito cusutore non vo pozza arrevutare, l'acci troppo arrevutato vo consigli ruità. Oh Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiama. Dove andate? A sale e ballo. Mi commuove e penso che ti faceva parte tella tutte le sere insieme a me. Ma mi faccio solitario, guardo in cielo e penso che Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, e stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Finito.